e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci ritrovate in diretta, Nicoletta, forza, pronte a partire. Oggi c'è una bella scaletta nutrita di argomenti. Bella ciccia. Sì, magari se col magari microfono aperto viene Carmelo, meglio. Perché oggi non è lui carico. Che ti boicotta. Sì, oggi non è carico perché non ha trovato il suo caffè preferito. Con il cioccolato. La macchinetta non funzionava, non era colpa nostra. Va e bene. Quindi mi fa gli scherzetti. No, perché diciamolo che glielo portiamo praticamente, non noi, Marco lo porta quasi sempre, però è la squadra di Cuore Denari che la si prende quota cura azzurra della dose di caffeina di questo uomo in regia. Bene, via. Andiamo? Sì. Allora, senti, ci ha messo un pochino di musichina perché non sa che cosa vogliamo fare noi. Vado avanti io vai, ci aggiorni tu? Tocca a te. A me. Allora, oggi è la giornata mondiale del rene e allora noi non potevamo perdere l'occasione per parlare di questa coppia. Sì, ci piacciono le coppie, una coppia qua, come consolidata noi due. Come questa, ecco. Esatto. Bene, questa è una coppia che pur avendo un ruolo determinante per la nostra salute, pur essendo disposta, diciamola tutta, a fare qualunque sacrificio per fare il suo lavoro nel migliore dei modi, è poco chiacchierata, gode di poca considerazione, perché siamo tutti attenti al cuore, lo sentiamo battere, se sussulta ci attiviamo, ci preoccupiamo del nostro stomaco, se digeriamo male cerchiamo di correre ai ripari provando magari a mangiare meglio. Tra l'altro ricordiamo che a marzo a Cuore Denari è il mese della pancia, tutte le indicazioni le trovate sul nostro sito. Se le nostre articolazioni scricchiolano un po', ecco che ci attiviamo. Ma i reni, chi li sente, dove sono, cosa fanno? Allora io vi invito a farvi queste domande, ma soprattutto a provare a dare una risposta. Se non la conoscete non importa, andate con l'immaginazione, siate creativi e incrociate le dita, cercate di stupire il nostro ospite, perché sarà il suo insindacabile giudizio a decretare il vostro diritto a ricevere a casa un libro della libreria di Cuore Denari. Intanto, a proposito di coppia, sono proprio due gli ingredienti che, mescolati ad arte, riescono a dare sprint al nostro cervello, a attivare la nostra memoria, la nostra concentrazione, insomma tutte quelle funzioni che spesso fanno cilecca. Bene, secondo una ricerca portata avanti dai ricercatori dell'Università della Georgia, il caffè abbinato al cioccolato, quello che prende sempre Carmelo ogni giorno, sarebbe in grado di regalarci tutte queste virtù. Ma e infatti Carmelo è già lì bello da vedere. Ma soprattutto noi sentiamo la nostra amica Silvia Strozzi, naturopata ed esperta di cucina naturale. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah. Intanto voglio dirle che la sua ricetta couscous con il succo di mele, le noci, la frutta secca eccetera ha avuto un sacco di click. E quindi oggi facciamo anche un'altra ricetta. Ma caffè e cioccolato, sicuramente sapore molto buono, ma sì, lei che ne dice? Sapore molto buono. Il caffè e il cioccolato sono da sempre degli alimenti che stimolano il nostro organismo, il nostro metabolismo, però ce ne sono anche tanti altri che possiamo utilizzare, che hanno una buona funzione proprio per stimolare la nostra energia e anche mentale, ma anche fisica. Ad esempio l'orzo, che gli antichi greci trovavano stimolasse le forze dell'agire, quindi utilizzavano tantissimo per i lavori manuali e anche era il cibo dei filosofi, quindi entrava nell'attivazione delle forze della mente. Quindi adesso a Carmelo portiamo anche una bella tazza d'orzo al così mattino. Così ci filosofeggia. Sì, o l'orzo in chicchi, ad esempio, se voi unite l'orzo ai fagioli, che hanno la forma del rene, quindi visto che è la giornata del rene possiamo... Che eleganza, che tocco! E farci un ottimo orzotto con i fagioli e ad esempio i broccoli, che sono ricchi di antiossidanti e di quercetina, che è uno stimolante della concentrazione. Aggiungiamo le noci, che hanno proprio la forma del cervello, e questo pomeriggio avremo un sacco di idee. Ma fantastico, quindi orzo, fagioli, broccoli e noci. I fagioli, sì, ricordiamoci, è la forma del rene, ne parliamo tra poco, sì. Le noci la forma del cervello, voilà. Lo possiamo fare come minestra, ma anche come insalata? Sì, ma anche proprio al posto di mettere il riso per fare il risotto, ci mettete l'orzo e fate un orzotto invece che un risotto. Aggiungete i broccoli oppure tutti quegli alimenti che contengono anche degli antiossidanti, si possono usare proprio la zucca, certo, la carota, tutto quello che contiene delle sostanze che proprio stimolano il nostro organismo. E anche i semi di sesamo fanno molto bene proprio per la concentrazione e per stimolare l'attività fisica. Per cui un'ottima accoppiata è proprio l'orzo insieme alle noci. Fantastico. Ecco, vogliamo, poi chiudiamo. Hanno, diciamo, l'effetto un pochino stimolante che ad alcune persone può dare fastidio il caffè o può dare fastidio il cioccolato per le sostanze, le teobromine o le sostanze che ci sono all'interno, le caffeine, e invece con l'orzo e le noci non hanno nessun problema. A proposito di cioccolato, chissà che colore avrebbe la sua etichetta, Deborah? Questa etichetta, allora, per quello che mi riguarda, ecco, super verde, poi bisogna vedere i punti di vista. Lo sapete che questa, sì, etichetta differenzia i cibi in base alla quantità di sale, zucchero, grassi e grassi saturi, che è stata adottata da anni in Gran Bretagna e che ora potrebbe anche arrivare in tutta Europa, penalizzando, diciamo, il meglio anche del Made in Italy, prosciutto, parmigiano. Sì, sì. Quindi il cioccolato che colori avrebbe? L'importante, mi raccomando, è vedere la provenienza e proprio anche lo stile di lavorazione. Quindi è molto importante, perché tante volte vengono inseriti molti zuccheri, vengono inseriti anche dei grassi che non sono quelli tipici del cioccolato, e quindi non si parte magari da dei prodotti di ottima qualità, per cui insomma è sempre meglio assicurarsi della provenienza. Ecco, occhio all'etichetta, e di etichetta parleremo domani, proprio, vero? Domani, del esattamente, sentiremo un po' le considerazioni su questo tema che è molto divisivo, come è tanto. Molto divisivo, ma intanto raccontateci, fateci avere un po' il polso della situazione, scriveteci, perché domani vogliamo proprio sentire anche il parere dei nostri amici, che in fondo siamo noi, i consumatori. Anche che perché poi li abbiamo sceglie. Molto sensibilizzati alla lettura delle etichette, per cui adesso, se raccoglieranno insomma con favore questa nuova sfida dell'etichettatura alimentare, della semaforatura, come la possiamo chiamare. Però guarda, i semafori dividono sempre. Io ho letto che le peggiori liti tra gli automobilisti scattano proprio i semafori. Allora, che coppia. Dottoressa Strozzi, grazie per essere stata con noi. Ci mancherebbe. Prepareremo il riso. L'orzotto. Ve la ricordate? È la sigla di una serie di grande successo interpretata da Roger Moore e Tony Curtis. Attenti a quei due, è una sigla perfetta per il tema di oggi, perché, come anticipato, parliamo di reni. Che ne dici, Deborah? Ah, guarda, le tue scelte sono sempre assolutamente da bollino verdissimo. Comunque, c'è un ascoltatore che ha un problema serio. Cosa dice? Come dici tu? Buongiorno ragazzi, ho scaricato la vostra immagine da cuore denari e la è uso come male. Desco. La usa proprio, va bene, grazie, siamo commossi. Ero già preoccupata. Va bene, comunque, torniamo a essere seri. I reni sono due, non sono l'unica coppia. Diversi organi del nostro corpo sono simmetrici. Pensate alle tonsille, i polmoni, le ovaie, i testicoli. Ma i reni hanno tra loro un rapporto speciale, direi di mutuo soccorso. Ed è questa proprio una delle tante caratteristiche che li rende speciali. Intanto buongiorno al professor Antonio Santoro, past president della SIN, che è la Società Italiana di Nefrologia, e professore di nefrologia all'Università di Bologna. Buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Buongiorno. Professore, lei è pronto? Prontissimo. Pronto per scattare? Allora ci fermiamo subito, perché andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi torniamo insieme per raccontare fatti e misfatti di una coppia molto speciale, una coppia molto affiatata. Intanto, dove sono, cosa fanno? Andate di fantasia, scriveteci, porterete a casa un libro di... riceverete a casa un libro di cuore denari. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Cuore e denari. Il numero magico di oggi, due come sono i reni, una coppia molto affiatata. In linea con noi abbiamo il professor Santoro. Professore, partiamo da qui. Sì. Eh beh sì, è una coppia fatata, un po' come i personaggi di Attenti a quei due, come diceva lei, Roger Moore e Tony Curtis. Però a differenza di questi due personaggi, i Reni sono molto onesti, non fanno quelle scanzonate avventure, lavorano in silenzio, lavorano per noi, perché hanno il compito praticamente di regolare l'acqua corporea totale, gli elettroliti, la pressione arteriosa, i globuli rossi, l'osso, attraverso la vitamina D, e un po' tutta la circolazione regolata attraverso sistemi ormonali che sono prodotti dai reni. Sono piccoli? Sono piccoli? A forma di fagiolo? Ho sentito a forma di fagiolo, infatti hanno una forma di fagiolo, sono poco più grandi un pacchetto di sigarette. Pesano 150 grammi, stanno vicino alla colonna vertebrale, tant'è vero che nell'accezione comune si parla di mal di reni, quando invece spesso è la colonna vertebrale, perché i reni danno segni di dolore solo in pochissime occasioni, come per esempio con le coliche renali, per il resto sono abbastanza muti in questo. Ecco, infatti, questo potrebbe essere un vizio o una virtù, a seconda di come si consideri il problema. I reni tendenzialmente non danno segni di disagio, di fatica, ma, professor Santoro, ci sono anche delle persone, categorie di persone che, come si dice, non devono farsi prendere in castagna, devono tenere alta la guardia. Chi sono? Ci sono, proprio per, come diceva lei, siccome sono muti nella loro azione, cioè nel senso nella loro disfunzione, cioè mentre altri organi, il cuore e il polmone, danno subito segni di sé, i reni, fino a che non arrivano allo stadio terminale della loro disfunzione, non danno segni. Quindi bisogna guardare le persone che sono a rischio di sviluppare una malattia renale, quindi gli ipertesi, i diabetici, le persone in sovrappeso, quelli che hanno per una serie di circostanze un rene da solo, per esempio che hanno tolto un rene e quindi sono rimasti in una situazione di monoreni, quelli che consumano grandi quantità di farmaci, soprattutto i farmaci antinfiammatori, quelli che hanno delle alterazioni importanti del colesterolo che altera poi dopo le pareti vascolari. Quindi un elenco piuttosto lungo. Ma professore, lei ha, ricordo subito due categorie: le persone ipertese, le persone con diabete sono più a rischio, le persone naturalmente che hanno un rene solo. Ma ci spieghi perché, e facciamo anche eventuali distinzioni, perché parliamo di ipertesi che secondo i dati sono davvero tanti. Da sempre abbiamo pensato che l'ipertensione fosse un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari, adesso spunta anche il problema del danno renale? Come mai? Sì, purtroppo. Beh, ipertesi ce ne sono tanti in Italia, ora si calcola che siano sicuramente più di 10 milioni, mentre i malati di renie sono circa 2.500.000 praticamente, quindi molto meno, quindi non sempre l'ipertensione causa un danno renale, perché l'ipertensione ben controllata può non causare un danno renale, mentre invece quando l'ipertensione non è ben controllata, l'effetto pressorio a livello dei piccoli capillari del rene, ricordiamoci che il rene ha un milione di stazioni filtranti, dei piccoli filtri, praticamente, quindi l'elevata pressione del sangue lede questi piccoli filtri e li rende praticamente incapaci di rimuovere sangue, scorie azotate, di regolare l'equilibrio. Quindi l'effetto della pressione è un effetto esclusivamente di carico pressorio a livello di piccoli vasellini che stanno dentro il rene. Diverso è il diabete. Professore, tutti noi sappiamo che i reni sono un organo di filtro, intanto invito i nostri ascoltatori a fare una sorta di scheda dei reni, anche ho detto un po' aiutandosi un po' con l'immaginazione, la creatività, poi lei ci dirà se sono queste schede possono meritarsi un libro della libreria di Cuore Denari. Comunque tutti noi sappiamo che i reni sono un organo di filtro e chi dice reni pensa all'urina, alla pipì, la facciamo tutti più volte al giorno senza pensarci o senza stare troppo lì ad osservarla naturalmente, eppure la pipì è un indicatore importante del nostro stato di salute e di quello dei nostri reni, che a partire proprio da quello che ci ha raccontato lei, professore, possiamo in un certo senso definire un po' i registri della nostra salute. Ne parliamo tra poco, perché vorrei con l'aiuto del professor Santoro fare, e poi andremo a capire quali sono anche gli esami che permettono di valutare lo stato di salute del nostro rene, ma una sorta di valutazione del benessere di questa coppia, partendo proprio da un indicatore alla portata di tutti. Intanto però preparatevi. Claudio da Torino, buongiorno. Buongiorno. No, sembrava detto così, preparatevi, sembrava prepariamoci tutti a far pipì. Claudio, buongiorno. La domanda sua? Dunque, io sono stato operato di calcoli renali 4-5 anni fa. Adesso, attualmente, mi stanno succedendo episodi di gotta quasi, diciamo, ogni 2 o 3 mesi. Che è molto dolorosa, vero? Sì, certo. E volevo capire se c'era un collegamento tra i problemi renali, tra i reni, la disfunzione renale e la gotta. Grazie. Professor Santoro. Sì. Il gottoso già nell'immaginario collettivo, prima era, sì, si vedeva, era la malattia dei notai, si diceva, no? Sì, è vero, è vero. Stavano seduti tutti il giorno. Sì, ma poi c'è anche una storia sulla gotta un po' carina, se c'è tempo la racconteremo, perché si infiammava l'alluce, ne avevamo raccontate, allora si pensava che fosse invece tipica dei grandi amanti. Ah, e sì, allora sì, capitava, ricordo, qualche ricordo, prelato taceva la cosa perché aveva questa nomea di malattia per un po' di persone con un po' stile di vita allegro. Bravo, allegro. Professor Santoro, siamo seri. No, in effetti la gotta dipende per gran parte dal metabolismo dell'acido urico, cioè quando aumenta l'acido urico poi tende a depositarsi nelle articolazioni e l'articolazione più colpita è quella dell'alluce, per questo che l'alluce si ingrossa, diventa praticamente rosso e si infiamma. Quindi quello che dovrebbe fare Claudia è controllare molto meglio praticamente il suo acido urico, questo in parte solo attraverso la dieta. Sicuramente la riduzione delle proteine animali che poi producono l'acido urico è importante. L'altro discorso è quello di prendere dei farmaci da tenere l'acido urico a livelli estremamente bassi, perché quando lui si innalza praticamente precipita, ecco, cristallizza. E la luce diventa rosso e si accende un po' come il naso del tagliaccio. Si infiamma, diventa grande, non si riesce nemmeno a mettere le scarpe, quindi diventa veramente un grosso problema come tale. Ma non è solo un problema dell'alluce, perché poi si deposita l'acido urico nelle altre articolazioni, si deposita nei reni perché poi va a fare i calcoli in parte di acido urico, in parte di acido urico insieme con altre sostanze, il calcio, gli ossalati, quindi può essere praticamente un problema, quindi va sicuramente tenuta sotto controllo il livello dell'urice. Al 52 anni, sportiva, non sovrappeso, soffro di renella, da un anno smesso anche il caffè e bevo molto. La menopausa può influire, ci scrive Katia, professor Santoro? No, la menopausa non può influire. Se soffre di renella e ha fatto tutti gli esami per vedere perché ha la renella, soprattutto una sostanza, l'eliminazione dei citrati, la citraturia è estremamente importante perché i citrati sono dei sali che proteggono dalla calcolosi. Quindi se questi sono bassi, la signora deve reintegrare praticamente i citrati. E come si fa? Si fa un esame delle urine di 24 ore in cui si dosano i citrati per 24 ore. Allora, professore, abbiamo un minuto per dare... No? Non ancora... No. Professore, subito dopo il nostro GR andremo a valutare la salute dei nostri reni a partire proprio dalla nostra pipì. Naturalmente non basta questo, c'è anche un valore che si riscopre negli esami del sangue di cui parleremo a tra poco. Vi aspettiamo. Il segnale orario vi è offerto da... Italia Legno Energia, Fiera di Arezzo, 24-26 marzo. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Cuore e denari. Oggi festeggiamo, è la giornata mondiale del rene, c'è sempre qualcosa da festeggiare. Ieri 8 marzo, giornata della donna, oggi tocca ai reni, e c'è chi proprio in occasione alla festa della donna ha ricevuto un regalo straordinario, qualcosa di assolutamente prezioso al punto da non avere prezzo. Forse sicuramente avrete letto anche sui giornali la storia di due uomini, uno a Padova, l'altro a Torino, che hanno deciso di donare un rene alla loro compagna per risparmiare in un caso e per evitare nell'altro il ricorso alla dialisi. In linea con noi abbiamo ancora il nostro esperto, il professor Antonio Santoro. Professore, questo è un gesto d'amore che, compiuto in un giorno particolare, vicino all'8 marzo, assume anche un significato simbolico. Oggi donare è più semplice. Sì, oggi donare è più semplice perché si riescono a fare una serie di esami sul donatore in modo da assicurargli una garanzia sul fatto che anche se resta in una condizione di rene unico non abbia dei problemi, quindi questi esami sono facilmente accessibili e si riesce molto bene a definire lo stato funzionale dei propri reni. Ma è molto bello quello che c'è stato con la donazione di due organi da parte degli uomini, perché gli uomini sono abbastanza egoisti, perché nelle donazioni il 70% delle donazioni sono fatte dalle donne e solo il 30-31% credo siano degli uomini, quindi che siano stati due uomini a donare le donne è veramente molto bello, e questo è un dato che si sta verificando in Italia, tant'è vero che i trapianti da vivente stanno notevolmente aumentando. Ora nel 2016 ci sono stati più di 2000 trapianti di reni in Italia, quindi un dato veramente importante. Ecco, il trapianto che evita la dialisi o permette, che è un trattamento che vicaria la funzione del renale quando questa non c'è più, non è c'è corretto? Più. Certo, perfettamente, cioè il rene praticamente che viene ricevuto dal donatore poi comincia a funzionare normalmente, tutte le sue stazioni filtranti prendono a funzionare e quindi si evita poi dopo il ricorso alla dialisi, che invece è la terapia cosiddetta sostitutiva che sostituisce la funzione renale come tale. Professore, abbiamo anticipato che avremo parlato della nostra pipì. Colore, quantità ci danno delle indicazioni sulla benessere di questa coppia. La pipì la facciamo tutti, allora tanto vale arrivare a delle informazioni importanti. Professore. Eh no, questo è importante perché abbiamo detto che i reni purtroppo hanno il difetto di essere muti in quelli che sono i segnali della loro, diciamo, disfunzione. Quindi guardare l'urina, guardarne la quantità, il ritmo è estremamente importante. Pensate che nel Medioevo i medici di allora avevano l'unico metodo per capire la situazione clinica di un paziente era proprio l'esame dell'urina, si chiamava l'uroscopia. Mettevano l'urina dentro una boccia di vetro che sembra praticamente un decanter di vino rosso, ne guardavano il colore, la densità, l'odore per dare dei segnali. In effetti può essere importante perché il colore migliore dell'urina è il giallo paglierino, trasparente. Poi quando è molto diluita vuol dire che può avere molte scorie oppure c'è molta acqua e si è bevuto molto. Quando è molto densa vuol dire che invece si è disidratati. La facciamo rossa, quasi come lei ha riferito il decanter, sembra, no? Proprio un sommelier per il giallo paglierino. In fondo è così. Quindi chiamava uromanzia proprio, perché era una specie di arte divinatoria. Pensa che sì. Cose, guarda che la storia della medicina è straordinaria. Quindi giallo pagliarino, bisogna bere, la domanda gliel'avranno fatta mille volte ma arriva anche naturalmente da Cuore Denari, bisogna bere tanto per permettere ai reni di funzionare bene? I reni sani, per fare prevenzione bisogna bere abbastanza, si dice che bisogna bere 8 bicchieri di acqua al giorno, ora 8 bicchieri con un bicchiere 200 cc, quindi vuol dire un litro e mezzo di acqua al giorno sarebbe bene. Poi quando il rene comincia ad avere delle disfunzioni e quindi non riesce più a eliminare l'acqua, allora il discorso cambia e bisogna sentire il proprio medico che darà la misura esatta del bere. Però bere in prevenzione serve sicuramente. Abbiamo parlato del colore e quindi della qualità, ma anche la quantità di urina è un indicatore importante. Ma come faccio a rendermi conto se urino adeguatamente? Perché quando diventa particolarmente abbondante vuol dire che i reni possono cominciare ad andare incontro a una disfunzione, perché vuol dire che non sono più in grado di concentrare l'urina, soprattutto quando è particolarmente abbondante durante le ore notturne, questo può essere un segno praticamente di un'iniziale nefropatia. Poi purtroppo quando il rene invece arriva a gradi di disfunzione importante compare l'oliguria, cioè l'urina si contrae e l'organismo tende a trattenere acqua, ci si gonfia, compaiono le gambe gonfie e si può rischiare anche di avere l'acqua nei polmoni. Quindi quando noi pensiamo urino tanto quindi mi depuro, urinare tante volte durante il giorno e soprattutto urinare di notte non è un segnale così? No, può non essere un segnale così, naturalmente questo va proporzionato alla quantità di acqua, è chiaro, certo. Che se bevo molto, se bevo 2 litri d'acqua, perché urino, certo. Quindi va proporzionato a quello. Quando succede invece che bevendo una quantità normale si tende a urinare molto di notte, allora il discorso può essere diverso. Quindi il messaggio è sempre evitare, cioè cerchiamo di considerare eventuali cambiamenti. Certo, perché i cambiamenti sono sempre importanti, questi soprattutto per dare le informazioni a me. Poi è chiaro che ci vorranno poi degli esami che servono. Ecco, io vorrei proprio arrivare a lì, perché abbiamo analizzato l'urina come indicatore, ma naturalmente oggi il medico ha a disposizione degli esami molto più sofisticati, eccetera, e ancora una volta i reni sono un po' carenti di informazioni. Noi noi abbiamo una carenza di informazioni. Tutti conosciamo il valore della nostra pressione, o se non ne conosciamo i valori sappiamo che è importante, così come quelli del colesterolo e della glicemia. Sui reni un gran punto interrogativo. Invece la creatinina è quello che è a tutti gli effetti la cartina tornasole della salute dei nostri reni, ed è un valore che dovremmo conoscere o il nostro medico dovrebbe controllare. Perfetto, sì, perché la creatinina è un prodotto di scarto dei muscoli, quindi non è connesso col rene, però viene eliminato dal rene, quindi quando il rene non riesce a eliminare la creatinina, non riesce a eliminare anche le altre sostanze tossiche. Poi dal valore della creatinina messo in rapporto con l'età, col peso del soggetto, si ricava proprio il cosiddetto filtrato glomerulare, che è la quantità di acqua che viene filtrata dai reni, quindi si ha un'idea molto ben precisa, quantitativa, della funzione renale. Ma lei ci può dare un'indicazione, senza andare troppo nel tecnico, perché più le parole si complicano più noi perdiamo un po' la bussola. Sì. Possiamo pensare, come sappiamo i valori della pressione, quelli ottimali, del colesterolo, quale potrebbe essere quello della creatinina, o varia da persona a persona in base no, al peso? No, la creatinina varia un po' col peso, con l'attività sì. muscolare, perché dipende da questo, però in linea di massima non deve superare praticamente nel soggetto adulto, ecco, non nel soggetto anziano, che almeno i valori di 1,1, e soprattutto quello che dicevo prima, il filtrato glomerulare, che ora la maggior parte dei laboratori danno, deve essere superiore ai 60 millilitri, c'è un numerino, c'è questa soglia di 60 come per la pressione. Come tanto. Allora, abbiamo ancora due minuti, uno per Agata dalla provincia di Catania, che sentiamo, c'è Sant'Agata, la santa di Catania. No, mi sembra, Agata, quando è Sant'Agata? Oh, sì. Febbraio, il 5, vero? Il 5 febbraio. Perché qua potevamo interpellare anche Antonietta, che è dietro le quinte, avrebbe saputo senz'altro. Anche io sono per metà siciliana e catanese. Allora, prima scusi davvero? Agata. Anche sì, Marco, anche Carbone, Marco, giusto, Carbone. Allora Agata, la tengo lì perché Francesco, il nostro amico piastrellista che ci segue, è un po' preoccupato. Dice? Allora una rassicurazione dal professor Santoro. Francesco ha suo padre che è stato dializzato per 24 anni. Allora, Francesco voleva chiedere se la malattia può essere ereditaria. Lui di anni ne ha 43. E che cosa deve fare nel caso? Ma la malattia, ora ci sono malattie ereditarie, ci sono malattie che non lo sono. Non ereditarie che lo sono, per esempio il rene policistico è una malattia ereditaria, ma non credo che sia il caso. Ma un consiglio per Francesco. Consiglio fa gli esami del sangue, misura un esame della creatinina e un esame delle urine per vedere se ci sono le proteine, perché l'altro segnale è quello della presenza delle proteine nelle urine. Ok, Francesco l'abbiamo sistemato, ma per Francesco noi ci siamo sempre, come per tutti i nostri ascoltatori. Agata? Allora, nel 2002 ho avuto un cancro al rene destro, me l'hanno asportato, io fino adesso sto benissimo, grazie al cielo. Bene. Ho il colesterolo totale alto, però il rapporto tra quello buono e quello cattivo va bene, quindi a livello cardiovascolare non dovrei essere a rischio, ma per il rene che mi è rimasto... Grazie Agata, bella domanda. E Agata ne sa. È una bella domanda, infatti. Però siccome abbiamo pochi secondi. Sì, sì, il colesterolo arriva anche sui reni, quindi un pochino io lo abbasserei, anche se ora in sicurezza cardiovascolare può andare bene il rapporto. Sul rene, insomma, se riusciamo ad essere un po' più bassi anche attraverso la dieta o delle sostanze naturali è meglio. Potrebbe anche controllare la tiroide, la butto lì, con il colesterolo un po' elevato. Ammesso che la tiroide funzioni poco e allora il colesterolo va su. Ecco, ho aggiunto anche la mia, vede. Bravissimo. Che parlo anch'io. Bravissimo, professor bravissimo. Santoro, intanto voglio dire ai nostri ascoltatori che sulle pagine di Cuore Denari abbiamo raccolto un'intervista molto interessante del professor Montini, ordinario di pediatria, si occupa alla Demarchi di nefrologia dei bambini. Le malattie renali possono colpire anche i bambini, hanno tutte delle caratteristiche particolari. Andate ad ascoltare l'intervista del professor Montini, che il professor Santoro so che conosce bene. È una bella intervista. Intanto grazie professor Santoro per essere stato con noi. Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori. E buona giornata. E tutte le sue collaboratrici. Arrivederci. Grazie. Buona giornata. Grazie professore. Praticamente l'unica siciliana seduta a questo tavolo, l'unica non siciliana sono io. E non lo so. Perché anche Carmelo, non lo so. Dottor Gaudio, come siamo messi ad origini... Purtroppo non sono siciliano. E allora, niente, ce ne dobbiamo andare. Ce ne dobbiamo andare. Mi piaceva così tanto. Niente, Sant'Agata, vabbè, dai, no, perché anche non abbiamo citato Carmelo, che non so esattamente che origine ha, ma Carmelo tradisce. Quindi, vicino ad Agrigento. Quindi niente, non catanese, però insomma questa terra meravigliosa che noi salutiamo con affetto. Vi ho già svelato un po' il mistero del nostro prossimo ospite. Allora, prendiamo un po' il timone della trasmissione, perché oggi è giovedì e i nostri ascoltatori sanno bene che cosa li aspetta adesso. Sembrano giornate quasi di calma piatta quelle che stiamo vivendo sui mercati finanziari, perché anche Wall Street da qualche giorno ha raffreddato tutto quell'entusiasmo che aveva messo in campo per diverse sedute di fila, scatenato dalle misure fiscali che è pronta a varare l'amministrazione Trump per rilanciare gli investimenti e sostenere l'economia. Wall Street comunque viaggia ancora sui suoi massimi assoluti anche negli aggiustamenti delle ultime sedute. Londra corre senza paura nel processo che porterà alla Brexit. Le borse europee si confrontano, sono un po' più caute con il tema politico. Le elezioni olandesi sono dietro l'angolo, anche se guadagnano meno ribalta della cronaca rispetto alle attese per quelle francesi. Altro tema importante è l'inflazione, che torna a crescere, e in questo scenario che scelte fanno i piccoli e i grandi risparmiatori? Oggi vorremmo tornare anche su tutti questi temi insieme alle attese per le prossime iniziative delle banche centrali. Siamo pronti dunque ad andare a scuola di risparmio. Investire informati. Peraltro comincio già con l'anticipare, Nicoletta, che ci aspetta una bella tre giorni intensi a metà aprile al Salone del Risparmio. Tu verrai con me, stiamo già mettendo in campo tante belle iniziative, tanti ospiti che sono pronti naturalmente ad avvicendarsi al nostro studio mobile che ci sarà, che sarà presente appunto a questo appuntamento. A breve vi daremo tutte le indicazioni anche per partecipare alle nostre iniziative. Nel frattempo è tornato a trovarci Vittorio Gaudio, direttore Asset and Wealth Management di Banca Mediolanum. Benvenuto. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Senza la patente siciliana, pazienza. Mi dispiace. Come me. Cercherò di fare meglio. Per le vostre domande sui temi di mercato, i vostri dubbi, le vostre scelte di risparmio, ci siamo anche oggi all'800 24 00 24. Ma prima di tutto, dottor Gaudio, arriverà quel giorno in cui riusciremo a parlare di mercati finanziari e scenari finanziari senza pronunciare mai la parola Banca Centrale Europea o la parola Banca Centrale Americana, senza citare le banche centrali con tutte le loro iniziative? Ce la faremo un giorno? Che dice? Credo che questa sia una missione impossibile, nel senso che le banche centrali sono gli attori principali oggi sui mercati finanziari e lo resteranno ancora per qualche tempo. Certamente le interpreteremo in modo diverso, nel senso che in questi anni siamo stati abituati alle politiche cosiddette straordinarie, accomodanti, quindi creazione di liquidità. Super espansive. Super espansive. Probabilmente, e c'è qualche segnale molto evidente in questa direzione, dovremmo tornare a parlarne come gli arbitri e i controllori dei mercati finanziari, quindi saranno un pochino più arcigne, in particolare quella americana, lo vedremo tra pochissimi giorni con un rialzo dei tassi. Rialzi di tassi che proseguiranno, e pian piano anche la BCE dovrà accomodarsi su un sentiero un po' meno rivoluzionario. Infatti, chissà se oggi dirà qualcosa Mario Draghi. È iniziato probabile. Alle 9 il direttivo della Banca Centrale Europea, alle 13.45 come sempre decisione sui tassi di interesse, poi conferenza stampa inizia come sempre alle 14.30. Peraltro proprio oggi il programma di quantitative easing della Banca Centrale Europea, Nicoletta, compie 2 anni, pensa, è un piccolino questo programma, ma in realtà è stato già molto incisivo nella sua azione. Proprio il 9 marzo del 2015 l'Istituto di Francoforte iniziò a comprare obbligazioni governative dell'Eurozona, aggiungendo in seguito anche l'acquisto appunto di titoli privati, i cosiddetti corporate bond, le obbligazioni societarie. Vi do qualche cifra tanto per capire cosa ha fatto in questi anni la BCE. Ha acquistato titoli governativi per 1.412 miliardi, gli acquisti più significativi, quelli in bund tedeschi, quindi in titoli decennali tedeschi, 339 miliardi, 269 in titoli francesi, e ha comprato anche 234 miliardi di BTP italiani. Per fortuna. Come mai ha fatto questo inciso? Lo vogliamo spiegare agli ascoltatori? Certamente credo che i paesi cosiddetti periferici, quindi l'Italia, la Spagna, quelli che hanno avuto problemi, ricordiamo 2011-2012, sono stati grandi beneficiari di questa iniziativa, anche se in verità forse i libri di storia ci diranno che questa iniziativa non è riuscita a passare completamente sull'economia reale, quindi gli effetti sono stati più a livello di bilanci bancari e di, diciamo, bilanci dei titoli di Stato, quindi contenimento degli spread eccetera, ecco, sull'incidenza sull'economia reale, che poi era quello che doveva essere l'obiettivo finale. Ecco, qualche perplessità in più io ce l'ho, però diciamo ne parleremo forse. Infatti, allora, intanto, a proposito dell'iniziativa di oggi e di quello che Draghi potrebbe dire sulle iniziative del futuro, c'è questo meeting Non sono previste manovre in senso restrittivo della politica monetaria della BCE, non è proprio tempo, anzi proprio il nostro collega del Sole 24 Ore, Vito Lops, ha interpellato una grande casa d'affari, una grande banca di investimento, Morgan Stanley, che dice che la BCE potrebbe alzare il costo del denaro non prima del luglio 2019, quindi fra ben 27 mesi. Detto questo, però, pian piano magari ridurrà l'acquisto di titoli di Stato e bond governativi, ma qualcosa sul tema dell'inflazione dovrà dire, perché questo è il tema importante, il faro guida dell'azione della Banca Centrale Europea, dottor Gaudio. Infatti io credo che oggi l'interesse sarà proprio, come spesso è già successo, sul famoso QE, quindi question and answers, la conferenza stampa, quella del pomeriggio, perché effettivamente ogni accenno di Mario Draghi al fatto che l'inflazione sta ripartendo potrebbe essere interpretata come un primo tentativo di, come dire, di diventare un po' meno colomba e di diventare pian piano, abituare i mercati a un approccio della banca centrale un pochino più rigido. Più da quindi, falco. Ecco, più da falco, comunque meno da colomba, mettiamolo in questi termini. Visto che ci stiamo avvicinando a Pasqua, esatto, perché no? Esatto. Quindi questo secondo me sarà l'aspetto più interessante, perché come lei diceva, certamente non ci saranno misure in direzione restrittiva, almeno per tanto tempo. Ecco, qualcuno parla appunto del 2019 come possibilità iniziale di un rialzo dei tassi, altro li vedono a fine 2018, comunque abbiamo ancora tempo. Però sarà importante capire qual è l'opinione della Banca Centrale sul tema inflazione, che sta dividendo profondamente l'Eurozona, perché ad esempio in Germania c'è una sensibilità, sappiamo, piuttosto acuta su questo tema. Qualcuno sta già criticando Mario Draghi e la sua BCE per il fatto di non tener conto di questa ripresa dell'inflazione, che preoccupa molto in Germania storicamente. Per noi è un problema molto minore oggettivamente, però effettivamente si stanno vedendo dei segnali abbastanza incisivi, certo, a livello di tutta l'economia in termini e di inflazione. Qui il tema è che dobbiamo fare proprio scuola di risparmio, perché questa inflazione si divide in due grandi aree, cioè quella generale e quella core. Allora, quella generica è diciamo al 2% nell'Eurozona, comunque si è avvicinata, certo, prepotentemente a questa soglia. Il tema è che quella core, quando l'inflazione la depuriamo dalle componenti molto volatili, certo, alimentari ed energetica, siamo allo 0,9%, quello è il target della BCE, cioè l'inflazione core, quindi a questo livello è evidente che a questo livello Mario Draghi non può preoccuparsi, appunto. Beh, è chiaro che è molto più corretto guardare l'inflazione depurata da questi elementi, perché se vogliamo anche la ripresa dell'inflazione nell'economia globale in questi mesi è stata dovuta in grandissima parte alla ripresa del prezzo del petrolio, quindi da $26 agli attuali 55, quindi per il momento non fa paura, però è chiaro che se l'economia, come dice anche il Fondo Monetario Internazionale, nel 2017 dovesse ripartire in maniera importante a livello globale, politiche di Trump quando arriveranno sono sicuramente foriere di un aumento dell'inflazione, e quindi sotto questo aspetto è chiaro che le banche centrali sono un pochino più, diciamo, in una fase di attesa, più critica se vogliamo, e quindi secondo me il 2017 potrebbe riservare delle sorprese. Senta, a prescindere da quello che farà Mario Draghi, che ci preoccupa naturalmente, ma relativamente, andiamo un po' a vedere invece con un'inflazione che rialza la testa cosa deve fare un piccolo risparmiatore. Il Tesoro italiano proprio pochi giorni fa ha collocato un nuovo BTP indicizzato all'inflazione, un titolo a 10 anni, 3 miliardi di euro, l'emissione indicizzata all'inflazione dell'area euro. Il nuovo titolo ha una scadenza 15 maggio 2028, il tasso annuo reale all'1,3% pagato in due cedole semestrali. È buona cosa puntare su, per esempio, un titolo di Stato che viaggia in linea con l'inflazione per proteggere il proprio risparmio? Ma guardi, io credo ogni tanto su questi strumenti c'è anche un po' di moda. Ad esempio il fatto che sia partito il tema dell'inflazione recentemente ha causato molto interesse nei confronti delle obbligazioni inflation linked a livello complessivo. Io lo guarderei più in termini di pianificazione finanziaria. È corretto avere una porzione del portafoglio in questi strumenti, strumenti non tanto per speculare sulle previsioni di inflazione, sulla curva dei tassi, ma semplicemente per avere una componente del risparmio che in qualche modo sia in grado di tutelarci dal rischio inflazione. Teniamo conto che non è la sola, perché ricordiamoci che anche una componente azionaria, soprattutto in settori che possono essere diciamo favoriti da una ripresa dell'inflazione, ce ne sono. Per esempio un paio ce ne indica. Le dico, il settore delle materie prime, che è stato un settore negletto per tanto tempo, ha avuto anche performance molto molto difficili in certi periodi recenti della storia finanziaria, ecco, può essere un settore su cui andare a posizionare una piccola parte del portafoglio. Lo stesso settore finanziario, se vuole, può essere un qualche cosa che è beneficiato, perché maggiore inflazione vuol dire maggiori tassi di interesse che salgono. I tassi di interesse che salgono fanno bene ai bilanci bancari, perché migliorano il margine di interesse, quindi sotto questo aspetto si capisce ad esempio perché in questa fase il settore bancario a livello globale sia andato particolarmente bene, uno dei settori negli ultimi 12 mesi che sulle borse globali ha sovraperformato. Certo. Allora, intanto, a proposito di temi che vanno alla moda, dottor Gaudio, adesso ci dobbiamo fermare perché devo raccontare cosa succede stamattina in borsa, in attesa proprio di Mario Draghi, della conclusione del meeting odierno della Banca Centrale Europea, ma ce n'è un altro che si sta affacciando sul mercato italiano, potrebbe diventare la grande moda, dovremmo fare in modo che non diventi una moda, ma qualcosa di, come dire, un argomento su cui puntare con intelligenza, è quello dei PIR, i piani individuali appunto di risparmio, e ne parleremo fra qualche minuto. Intanto 800 24 00 24, se volete anche così partecipare, sedervi sui banchi di scuola insieme a noi, vi aspettiamo tra pochissimo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. E parlavamo poco fa proprio della seduta di borsa che vede una prepotente discesa oggi dei titoli petroliferi, e infatti, Nicoletta, sono scattate le vendite sul petrolio. Abbiamo un calo che vede il greggio portarsi sotto la soglia dei $50 al barile. Hai visto? Livelli che non si vedevano da un po' e che probabilmente ci permetteranno anche di discutere a lungo nei prossimi giorni anche di questo nuovo tema. Lasceremo da parte le banche centrali, torneremo a parlare del petrolio. Perché no? Dai, almeno se non altro non parliamo di banche. Si cambia. E insomma, abbiamo sempre un sacco di argomenti nella nostra rubrica del giovedì. Investire informati. Con Vittorio Gaudio, oggi Banca Mediolanum, ma c'è subito, prima di andare ai PIR e alla Banca Centrale Americana, dottor Gaudio, una bella domanda di Massimo da Roma, che è probabilmente quella, come dire, che può rappresentare un test fondamentale per vedere se i nostri esperti di finanza, anche di pianificazione finanziaria, hanno un buon approccio appunto con i nostri amici che ci chiamano. Massimo da Roma, benvenuto. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah. La mia domanda è questa. Tra circa 3 anni dovrò fare un investimento importante per mia figlia in termini di istruzione e formazione. Bravo Massimo. Bravo. Dove la manda? Che cosa fa fare a questa ragazza? Farà un master all'estero, da qui a quel momento stiamo individuando il posto migliore dove farlo. Insomma, bravo. Mettete a fare le formichine tutte per lei. Bravo Massimo, insomma. Bell'impegno. In bocca al lupo, bocca al lupo, esatto. Quindi, grazie, no bisogno. La domanda è questa: da qui a quei 3 anni metteremo da parte delle somme, vogliamo capire quale potrebbe essere lo strumento ideale. Certo, per accantonarle, parcheggiarle. Massimo, le posso chiedere adesso, proprio per avere tutte le informazioni e farci gli affari suoi fino in fondo, qual è la vostra capacità di risparmio proprio finalizzata a questo obiettivo in questo momento? Ma potremmo accantonare somma che oscilla tra le 500 e i 1000 euro al mese. Grazie Massimo. Beh, insomma, un bel impegno per questa ragazza, questa famiglia punta tutto sull'istruzione della figlia. La capacità appunto di risparmio, di accantonamento mensile non è irrilevante. L'obiettivo è chiaro, qua non si deve andare verso la pensione, ma in 3 anni si deve finanziare questo corso di studi per questa ragazza. Va bene, il parcheggio, ho detto tutto o niente, dottor Gaudio. Parcheggio oggi sappiamo che i tassi sono ancora bassissimi, quindi diciamo la logica della liquidità è sicuramente non percorribile per un obiettivo del genere. È chiaro che 3 anni non ci consente però neanche di avere un portafoglio eccessivamente rischioso, perché sennò rischiamo di trovare tra 3 anni magari l'annus horribilis dei mercati, non credo, però può succedere sui mercati, e quindi avere in quel momento l'indisponibilità della somma desiderata. Io farei un portafoglio di natura bilanciata, comunque con una percentuale di azioni dal 20 al 30%, non di più, considerato che c'è ancora comunque un clima favorevole sui mercati azionari, e la componente obbligazionaria magari inserire una componente cosiddetta di rischio di credito, quindi obbligazioni con rendimenti un pochino più elevati che consentano comunque di raggiungere tra 3 anni un percorso di accumulazione capitale sufficiente. Chiaro che di qui a 3 anni non possiamo impostare una pianificazione in lunghissimo termine, che potrebbe essere potenzialmente più redditizia, però anche molto rischiosa. Però insomma, magari il tema inflazione che sta riproponendosi lo deve considerare con il suo consulente, il nostro ascoltatore. Comunque da qui a 3 anni potrebbe infastidire questo portafoglietto destinato alla figlia? Ma io non credo anche perché oggettivamente le attese di ripresa dell'inflazione nell'Eurozona non sono immediate, quindi al di là di qualche tensione che vediamo, io non credo che almeno quest'anno o l'anno prossimo l'inflazione rappresenti un vero problema. Poi abbiamo visto pure il petrolio oggi, ecco, addirittura oggi diamo questa inversione di tendenza. Esatto. Ma Nicoletta, ma lo vogliamo dire anche che siamo oggi bellamente così live per i nostri amici che seguono sui social? Ma diciamolo, dai, diciamolo. Infatti, no, anche perché poi la telecamera noi ce l'abbiamo bella collocata di spalle, ma consente di visualizzare completamente. È di fronte a lei, dottor Gatti? Credo che sia quella, perlomeno speriamo che sia quella lì. La telecamera ci guarda. Esatto, per cui lei è a disposizione appunto del nostro pubblico che ci segue live su Facebook, se il nostro social network. Allora 800 24 00, ma sai che ti dico che faccio anche il domandone? E l'aspettavo. Eccolo qua, siamo pronti con la sigla? Quindi valutiamo se i nostri ascoltatori sono stati attenti nella prima parte della trasmissione, dove ho raccontato che proprio pochi giorni fa il Tesoro italiano ha collocato sul mercato 3 miliardi di BTP indicizzati all'inflazione euro. Avete colto a che rendimento è stato collocato questo titolo di Stato? Se ce lo spiegate all'800 24 00 24, qua partono dei libri anche per voi. Allora, prima di andare ai PIR, dottor Gaudio, la Banca Centrale Americana invece il mercato sconta al 100% un aumento dei tassi la settimana prossima. Direi di sì, in maniera pressoché unanime tutti gli osservatori vedono questo rialzo, anche perché tutte le dichiarazioni dei governatori sono stati, per tornare al paragone Falchio Colombo, molto falco ultimamente, e quindi credo che sia scontato un rialzo. Bisogna capire non tanto questa riunione ma le prossime, quindi quante volte alzerà la Fed quest'anno. Gli dicevano analisti, almeno 3 volte, almeno ma 3 probabilmente volte, forse volte. Ce ne sarà anche una e in più. E poi un'altra cosa da osservare in questa riunione, anche nelle prossime, se e quando la Fed farà riferimento allo smontamento del portafoglio di titoli pubblici che ha accumulato nel tempo, quindi dare qualche indicazione se lo lascerà scadere naturalmente o se andrà a ridurlo in maniera invece più aggressiva. Drastica, è certo, perché se se ne libera in maniera decisa avrà un qualche... sui tassi di interesse abbastanza importante, sui tassi dei titoli pubblici. Senta, prima ancora di andare ai PIR, perché c'è stato un altro tema interessante che ha un po' movimentato la cronaca finanziaria, soprattutto nelle fine settimana, la crescita cinese al 6,5% è stata fissata ad una soglia appunto di questo tipo che per ovviamente i ritmi cinesi a cui siamo stati abituati negli anni scorsi può apparire uno scandalo. Questo riassestamento, riequilibrio in realtà è necessario per raffreddare la crescita cinese per tutta una serie di riequilibri appunto interni, però spaventa un po' tutto il mondo esterno. Per un piccolo risparmiatore adeguatamente diversificato anche sulle aree emergenti, anche se qua siamo sempre un po' in conflitto se definire o meno quest'area ancora secondo questa modalità, ma è un tema che deve preoccuparci fino a che punto questo? Ma in verità le dichiarazioni del fine settimana che lei richiamava non hanno avuto grandi impatti sui mercati, nel senso che poi alla fine i mercati hanno già scontato che il modello di crescita cinese dovrà essere diverso, molto più basato sulla crescita interna, una crescita più equilibrata, probabilmente anche la forte ascesa del credito, soprattutto il credito immobiliare, andrà controllato con maggiore rigore. Quindi sono cose che i mercati conoscono. E il vero tema è effettivamente il tema collegato non solo alla Cina, ma alla globalizzazione in generale. Quindi i paesi emergenti, i mercati emergenti ne hanno molto beneficiato in questi anni. Vediamo quello che succede con la presidenza Trump. Ecco, quello secondo me è il vero punto interrogativo. Intanto stavo guardando che si sta candidando a rispondere al Domadon, mi fanno impazzire, ci sono le donne che si candidano a rispondere appunto ai nostri quesiti finanziari e questo ci fa veramente piacere. Allora, andiamo all'altro tema molto dibattuto del momento che riguarda un'importante novità nel settore del risparmio gestito italiano. Noi vi abbiamo dedicato già una puntata a fine febbraio, ma molti ascoltatori ci hanno chiesto di tornarci, ci hanno chiesto dei chiarimenti per capire come si potrà fare un investimento su questi nuovi strumenti, se ha davvero convenienza di spiegare un po' meglio il tema del vantaggio fiscale, che è il grande tema legato appunto a queste nuove opportunità. Stiamo parlando dei cosiddetti PIR, i piani individuali di risparmio, questi nuovi strumenti che si propongono obiettivi diversi. Da un lato incoraggiare il risparmio a medio e lungo termine, dall'altro far confluire capitali freschi verso l'economia reale. Offrono un vantaggio fiscale non indifferente a chi detiene l'investimento almeno per 5 anni. Ancora qualcuno lamenta che non ci sia grande chiarezza sulle strutture di costo, che evidentemente dipenderanno probabilmente non dalla norma che li contempla, ma anche dalle decisioni che prenderanno le società che li confezionano. Dottor Gaudio, è così o mi sbaglio intanto? Direi di sì, ecco, il fatto che non ci sia chiarezza sulle strutture dei costi mi sembra abbastanza strano, anche perché tutti gli strumenti di risparmio gestito oggettivamente dichiarano i loro costi in maniera molto trasparente. Chiaro, il tema l'abbiamo già affrontato tante volte. No, però volte. Mentre per legge c'è il tema del bisogna vantaggio fiscale, chiaro, leggerlo, ecco, esatto, però è chiaro che sì. Nel confezionarli ogni società potrà quantomeno applicare, certo, le commissioni che ritiene. Come per qualsiasi fondo comune o prodotto di risparmio gestito, quindi qui si tratta, il tema più generale della trasparenza dei costi degli strumenti finanziari, quindi non è solo il tema PIR, potremmo aprire un discorso se è trasparente la modalità attuale di scrivere tutto su questi pezzi di carta che vengono poi consegnati ai risparmiatori, che spesso sono abbastanza robusti da leggere, ci sono infatti tante pagine, però direi la struttura di costi è abbastanza chiara, quindi la struttura dei costi è quella tipica, ad esempio nel caso di un fondo comune che sia peer compliant, come si usa dire, quindi che è aderente a questa normativa, sono le commissioni di gestione e eventualmente se ci sono altre spese accessorie, come possono essere le commissioni di performance piuttosto che altre l'ingresso. Spese amministrative. Spese d'ingresso, comunque sono tutte dichiarate, quindi come in qualsiasi fondo comune sono commissioni di sottoscrizione, commissioni di gestione e eventualmente commissioni di performance. Adesso andremo invece al tema del vantaggio fiscale, che è quello appunto sicuramente su cui punta di più la proposta del PIR, a tra pochissimo. Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it vi presenta... Cuore e denari. A bruciapelo, così devo rifare il domandone, ma vedo che già stanno rispondendo in tanti. Insomma, sono stati attenti nella prima parte della trasmissione, dove abbiamo raccontato che il Tesoro italiano un paio di giorni fa ha lanciato una nuova emissione di titoli di Stato, BTP decennali, indicizzati all'inflazione europea. A quanto ammonta il rendimento appunto di questa emissione? 800 24 00 24, è facile, basta sfogliare i giornali degli ultimi giorni e questa notizia la trovate. Nel frattempo col dottor Vittorio Gaudio, Banca Mediolanum, stiamo parlando dei PIR, i piani individuali di risparmio, la grande novità del risparmio gestito, peraltro sulla quale si lavorava da tempo, adesso hanno un'adeguata cornice normativa e legislativa. Il tema è a chi sono adatti, che tipo di obiettivo hanno, provare a puntare, a sensibilizzare il risparmiatore anche nell'investimento di medio e lungo termine, e poi hanno tutta una serie di vantaggi fiscali. Dottor Gaudio, fra chi li demolisce, perché c'è chi pensa che abbiano appunto troppa concentrazione sul mercato italiano, che a sua volta ha il limite di non offrire tantissime opportunità, e chi invece li glorifica proprio per il vantaggio fiscale, ammettiamo appunto di andare a puntare sulle vie di mezzo, no? Allora, quali sono i punti di forza di questi strumenti? Io credo molto spesso gli italiani tendono a essere pessimisti su quello che succede in Italia, e che io credo, senza parlare di rivoluzione, comunque che i PIR siano effettivamente uno strumento estremamente importante e ben congegnato. Quindi in questo caso credo che l'iniziativa del governo sia stata un'iniziativa veramente propizia, che può portare denari importanti a tutta quella parte di economia reale, quindi parliamo delle medie imprese, non solo delle piccole medie imprese, che effettivamente, come si diceva prima, sono state dimenticate anche dalle politiche monetarie di questi anni. Quindi io credo che effettivamente le stime che girano, che parlano dai 12 ai 16 miliardi in qualche anno, possano essere essere anche superate. Noi lo vediamo, ecco, anche il responso che stiamo avendo da parte dei nostri clienti a cui stiamo offrendo delle soluzioni peer compliant è entusiastico. Perché quindi, voi peraltro avevate già un fondo che avete fatto aderire alla normativa nuova, dei prodotti tra che società che ne hanno confezionati ex novo, c'erano invece molti altri che già ne avevano noi, in casa. Devo dire in questo caso, senza fare pubblicità all'azienda, però eravamo stati lungimiranti. Proprio perché avevamo lanciato qualche tempo fa un prodotto che poi si è rivelato con pochissime modifiche essere assolutamente adatto. Era un fondo adatto. Azionario italiano. Era che un fondo su... bilanciato italiano, quindi che aveva una parte sia di obbligazioni che di azioni investite sul mercato italiano, in particolare proprio sul segmento delle medie e piccole capitalizzazioni, quindi ci credevamo già molto. Perché il PIR è bilanciato, non è esclusivamente azionario, il quindi non è completamente formato da... Esatto, per venire alla domanda a chi è adatto, PIR, si possono fare PIR con diversi livelli di rischio, quindi possiamo avere dei PIR con una componente bilanciata tra obbligazioni e azioni e dei PIR completamente azionari, quindi qui rientriamo nell'ambito del profilo di rischio legato all'asset class, no? Azionari e obbligazionari. Per intenderci, richiamiamo la normativa sul PIR. Allora, per essere PIR compliant bisogna investire almeno il 70% in strumenti finanziari, quindi finanziari possono essere sia azionari che obbligazionari, che siano emessi appunto da imprese con stabile organizzazione in Italia o comunque legati in termini semplici. Peraltro l'Agenzia delle Entrate l'ha chiarito questo aspetto della stabile presenza in Italia, significa avere delle fabbriche che producono qua oppure essere anche magari una società straniera che ha un'organizzazione stabile in Italia? Sono arrivati questi chiarimenti dell'agenzia? Stanno arrivando questi, però voglio dire la normativa secondo me è molto chiara, c'è stato un, se vogliamo un pochino di inizio difficoltoso di interpretazione di queste norme, però credo che il tema dell'organizzazione stabile in Italia, la presenza produttiva in Italia sia una cosa molto, molto chiara, evidente, molto netta da quello che si legge. Ecco, ritorno alla definizione del portafoglio. Ecco, la cosa importante è poi che il 30% del 70% investito su strumenti finanziari italiani o comunque con sede in Italia, stabile organizzazione via via, devono essere investiti in strumenti che non appartengono all'indice principale, quindi il famoso FTSE MIB. Di conseguenza cosa succede? Che avremo un 21% dei 100 euro investiti che possono effettivamente andare a favore di quest'area che, ripeto, è stata un'area molto dimenticata dagli investitori nel tempo e quindi effettivamente, naturalmente, che cosa deve essere la condizione a priori? Che esistano degli strumenti investibili. Quindi la grande rivoluzione che può nascere è che questi denari che arrivano e possono arrivare a favore delle piccole e medie imprese stimolino anche gli imprenditori e le imprese a quotarsi a emettere strumenti finanziari e quindi approcciare il mercato in una forma moderna, quindi meno bancocentrica e più legata al mercato dei capitali. Che si crei un circolo virtuoso e questo se succede per l'Italia è una rivoluzione, ecco, quindi sotto questo aspetto, senza essere diciamo euforici, però può essere effettivamente qualcosa che cambia i mercati. Benissimo, ho 2 euro, dottor Gaudio, da collocare appunto in un PIR, che mi permettono di sottoscrivere un PIR. Decido, 30.000. Facciamo 30.000 perché la quota massima annua, certo. Non si può investire di più. Qual è il vantaggio fiscale appunto che mi riconosce lo Stato? Ricordiamolo. Beh, sostanzialmente lei viene a non pagare, sempre che mantenga la detenzione nei 5 anni, quelle che sono le imposte legate all'attività sui mercati finanziari, in primis l'imposta su capital gain e poi l'imposta di successione, quindi sotto questo aspetto è un vantaggio ragguardevole. Ovvio dire che l'imposta sul capital gain si paga se c'è un capital gain, quindi naturalmente il fondo deve andare bene, deve produrre un capital gain, se no il vantaggio non c'è. Devo dire che comunque anche le altre società che abbiamo interpellato per spiegarci questi strumenti in maniera molto prudente dicono non è uno strumento destinato ad una crescita del capitale vistosa, quasi, come dire, hanno un'ottica sicuramente anche un po' del mantenimento del capitale investito, se si scelgono i cavalli vincenti, non è detto. Esatto, poi dipende veramente il profilo del prodotto. Adesso pian piano piano si creeranno sul mercato tante forme di PIR, da quelle con una percentuale obbligazionaria importante. Basta che non diventano come gli ETF, un mondo veramente no, ormai ma per... Non credo, e credo, guardi, che anche il tema, della liquidità secondo me sarà meno difficile di quanto alcuni pensano. Quindi secondo me si possono creare tanti prodotti molto interessanti. Insomma, l'importante è informarsi bene su come funziona tutto. Intanto qua stiamo andando verso la conclusione. Si sono informati molto bene i nostri ascoltatori. Da chi cominciamo? Rino, dalla provincia di Bologna. Buongiorno. Rino, il BTP indicizzato all'inflazione europea del Tesoro... È l'1,5 per mille. Ma no, mannaggia, proprio per un soffio ha sbagliato. Però guardi, io un libro glielo mando lo stesso. Ma certo. Ce n'abbiamo un sacco qua. Nenella d'Ancona, buongiorno. Che bel nome. Buongiorno. L'anconetana, d'altronde. Certo. Nenella, ci dica, a quanto ammonta il rendimento del BTP a 10 anni indicizzato all'inflazione europea? 1,3. Brava. Aveva risposto correttamente anche Tonino da Roma, mi pare, no Marco? Quindi l'abbiamo messo volontariamente in onda, non riusciamo a sentirlo, ma noi naturalmente un riconoscimento lo abbiamo in serbo per lui lo stesso. Dottor Gaudio, abbiamo terminato, torneremo sui PIR, tanto qua sarà il grande tema. Ne parleremo tante volte, credo. Del Salone del Risparmio, anche i nostri amici che su Facebook, ciao seguendo. Ciao, alla prossima puntata, adesso mi raccomando, porta tu un bel medico. Ci penserò. Ce la possiamo fare. Buona giornata a tutti.